qua. Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con Mosca, dove abbiamo Victor Gaiduc, che è un amico di questa trasmissione, un amico della radio e di tutto quanto abbiamo fatto in questi anni. Ci ha sempre seguito, non ci ha mai abbandonato. Ricordo Victor Gaiduc, professore di storia dell'Università di Mosca, ma anche grande esperto di musica. Del resto io l'ho incontrato nella biblioteca di Tolstoi a Jasnaya Poliana mentre cercava degli spartiti appartenuti a Chekhov, e questo ogni tanto amo ricordarlo proprio anche per, diciamo così, segnalare il nostro fortuito incontro, che però era già stato preparato forse da tanto tempo. Buonasera professor Gaiduc. Ah, buonasera, buonasera. È bello salutarci nella stagione bella di Mosca. Certo, almeno farà caldo a metà luglio a Mosca. Sì, ma Mosca sfrutta in questi giorni, mesi, la voglia della città, dei suoi abitanti, di vivere intensamente, come se tutto fosse concentrato in estate. Ah, ecco. E cosa succede a Mosca dal punto di vista musicale, professor Gaiduc? Sono aperte tutti i chioschi di musica, teatri all'aperto, che adesso c'è di moda di chiamarle all'americana open air, cioè all'aria aperta, certo, all'aria del cielo, e tutto musica a Mosca in questa stagione, che dura tra metà maggio e metà settembre, concerti all'aperto, dunque passeggiate nei boschi, tuffi nei fiumi, eppure battute di pesca allo Storione nel fiume Moscova, a due passi dalla fermata del Cremlino. Ecco perché, dunque, teniamo presente che il fiume Moscova in questo periodo è navigabile e gode tra l'altro di un momento, diciamo così, di balneazione, no? Ci sono spiagge aperte, che a quattro passi dalla spiaggia c'è sempre un'orchestrina a fiato, che appartengono a vari teatri e a vari istituti, di accademie di musica, e quindi è veramente una stagione bella, non solo per il caldo, ma anche perché il sole tramonta dopo la mezzanotte a Mosca, a Pietroburgo ancora meglio, perché non tramonta mai in questi giorni. E professor Gaiduc, cosa possiamo aggiungere a questo quadro che ci ha dato di Mosca? Possiamo aggiungere tanto, perché la stagione è calda e quando si beve la bevanda nazionale russa slava, prodotta con la fermentazione della linfa di betulla, figuriamoci, e più frequentemente di frutta e bacche del bosco russo, leggermente alcolica, tanto che qui in Russia la bevono anche bambini. E come si chiama questa bevanda, professore? Kvass, vuol dire, tradotto alla lettera, un bevanda acidola, insomma. Siccome non abbiamo né limoni né arance, allora usiamo la betulla per fermentarla. È incompatibile, perché per 20 anni ci hanno fatto il vizio di bere le bevande chimiche americane, ma non hanno stravinto, e quindi si è tornato a bere il kvass. Ecco, e questo kvass si beve mentre si ascoltano le orchestrine, quella jazz suite leggermente alcolica, allora è più facile a ballare tutti insieme, perché quel valzer che appena abbiamo ascoltato si chiama in Russia il valzer del grande abbraccio. E come si celebra, insomma, questo grande abbraccio, cantandolo tutti insieme, ballando tutti insieme? Sì, ma cantando anche con le note di questo valzer, di questa melodia, con la bocca aperta, la la la, tra la la, e siamo, e rimando tutte queste parole, che sono suoni d'amore, diciamo con la rima amore, perché ogni frase finisce con l'amore e si canta in italiano perché c'è un raccordo. Sì, perché amore qua si capisce. Ma in russo come si dice amore, professore? Detto da lei un'altra cosa. Lubov, ecco, dall'antica deessa pagana slava, come Venere, greca, latina, insomma, si chiama così, Venere. Capisco. Senta, abbiamo un altro brano tra quelli che lei ci ha raccomandato, che è di Mussorgsky, La grande porta di Kiev, dai quadri di un'esposizione. Sì. È un pezzo scritto all'origine per il pianoforte. La più bella interpretazione è di Richter, diciamo così, ma poi Ravel, ecco, che per lui, ma si dice qua Ravel, l'ha orchestrata per grande orchestra sinfonica, quindi è diventata un po' più forte di quanto suonasse col pianoforte il nostro caro Richter, indimenticabile interprete di questo pezzo dei quadri dell'esposizione. Ecco, professore, ma Kiev non è più Russia, perché adesso è la capitale dell'Ucraina. Ma poi torna nella patria, quindi non era più russa, è diventata polacca nel periodo della Grande Guerra, poi con la guerra civile non era più russa, poi è diventata russa, ridiventa quello che è nelle cronache antiche russe, la madre delle città russe. Ecco, quindi è della vecchia Russia Kiev. Sì, sì, è fondata dai Varesi, però, dai normanni. Ecco, professore. La parola stessa vuol dire il bastone del Varego, che per pernottare e costruire la difesa contro i lupi, gli orsi o i ladri, mettevano sti bastoni formando il castro Varego. E quindi Kiev significa bastone? Significa, sì sì, una bastonata più che altro. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con Mosca, con il professor Viktor Gajduk, nostro amico vero da lungo tempo di questa trasmissione e anche personale, vorrei aggiungere, e ci sta un po' conducendo per le strade, per le vie di Mosca, lungo anche le spiagge, chiamiamole così, della Moscova. Sono spiagge piccole ma molto belle, molto accoglienti, dove in questa stagione, in questo momento caldo anche per Mosca, si fanno concerti, si fanno incontri, si fa musica, insomma, e allora ci sta un po' facendo da cicerone nella città che ha, come diceva il patriarca Alessio, le sue più belle chiese riflesse nelle acque della Moscova. E cosa possiamo aggiungere, professor Gajduk? Dopo quel pezzo travolgente, come hai detto, orchestrato da Ravel, scritto da Mussorgsky per il pianoforte, e questi riflessi che sono distorti da bagnanti lungo le rive della Moscova, nei pressi dell'università, quello che sta in cima alla città o in fondo al Gorky Park. E chi volesse godersi una giornata di sole e tuffi potrebbe spingersi fino ai laghi Srebrni Bor, traduco Bor come la pineta. Srebrni vuol dire argentata, la pineta argentata, dove si trova clima, attrezzature da spiaggia, sdraiarsi si può sul prato e nuotare nell'acqua limpida della Moscova, che forma in questa ansa tantissimi laghi. O c'è la famosa spiaggia per i nudisti, o come dicono i moscoviti, naturisti, che si chissà perché tutti preferiscono le musiche di Prokofiev. Là alla spiaggia dei nudisti? Professor Gajduk, cosa possiamo aggiungere dopo la scoperta di Prokofiev, che viene suonato accanto al Parco dei Nudisti, che è un po' lungo da raggiungere, ma cos'altro possiamo segnalare? Ma è un luogo più vicino, che è il mio luogo natio, si chiama Tsaritsa, no? Il potere della zarina, cioè dell'imperatrice Caterina la Seconda. Si chiama Tsaritsyno, come ha detto, che ha tre sale di concerto nel grande palazzo delle imperatrici, che le doveva servire come residenza estiva, un grandissimo e bello lago molto pescoso, con tutti i cimi necessari per il lago in Russia. E qua c'è una radura, un prato molto curato, che era il momento di riflessione, il luogo di riflessione sia dei compositori che degli scrittori, i poeti russi, perché molte poesie, molti racconti di Turgenev, per esempio, nascono su questo prato, dove in estate suonano all'aperto la musica di Rachmaninoff, a cui piaceva questo luogo. Rachmaninoff, celebre, è diventato celebre anche per un film, il concerto numero 3 per pianoforte, il cosiddetto Rach 3, no? Torna in Russia perché è emigrato in America durante la Seconda Guerra Mondiale, entusiasmato dalla battaglia di Stalingrado, la vittoria della Russia, compone pezzi, diciamo, pieni di nostalgia e di patriottismo, dell'amore patria che gli è lontano, raccoglie soldi per gli aerei, i carri armati dell'esercito rosso, e quindi ridiventa il chiodo di tutte le serate, diciamo, di nostalgia e dell'amore patria. Ma io sono in vantaggio perché rivedo quel prato dove nasce questa musica, la letteratura russa fa le sue origini, ma per ricordare la Jasnaya Poljana di Tolstoi, che era ed è il luogo molto bello e pieno di musica, dove una volta abbiamo accominato insieme ad ascoltare il fruscio degli alberi di acero che fa nascere musiche da camera e da sinfonia. L'ultima domanda, professor Gajduk, vicino a quel lago, a quel laghetto che ospita anche la panchina sulla quale Bulgakov ritrovò appunto il diavolo all'inizio del Maestro e Margherita, cosa si suona Si suona il jazz. Ecco, mi tutto pare tutto jazz, perché diversamente darebbe torto a Bulgakov, perché lui è talmente satirico che la musica di jazz è proprio più appropriata. C'è il padiglione con buon ristorante, le barche con le quali si può prendere la frescura del laghetto, e tante altre belle cose. E poi c'è il ballo in maschera, dove a mezzanotte torno a tutti i personaggi di Bulgakov. Ecco, il laghetto si chiama, se ben ricordo, Cistiprudi? Quello è un altro, dove c'è un altro jazz, ma il laghetto di Bulgakov si chiama del Patriarca. Ah, ecco, l'altro è invece appunto un po' vicino. No, perché in una estremità del lago sta la casa, la residenza del patriarco di tutte le Russie, e dall'altra c'è il luogo del romanzo Maestro e Margherita. Tutto qui, insomma, era una questione di collegamento lacustre. Professore, grazie per essere stato con noi, il tempo è volato. Tempo volato, purtroppo, perché si potrebbe parlare altri, raccontare altri 10 luoghi di musica. Ma lo facciamo magari un'altra volta. Adesso la dobbiamo salutare. Certo, perché a settembre torno a Mosca a cantare la grande Netrebko. Va bene, e ascolteremo la Netrebko. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie dell'attenzione. E poi do come sempre appuntamento domenica prossima alle 21, un cordiale saluto da Armando Torno e da Victor Gaido, che parla da Mosca in piena estate.